Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Secondo i dati dell'Associazione Internazionale TAPA, che si occupa di sicurezza delle merci nelle varie fasi della catena logistica, nel mondo starebbero crescendo gli episodi di cargo crime. Con cargo crime si intendono i furti e le rapine dei prodotti durante lo stoccaggio e il trasporto, un fenomeno che ha ripercussioni sia economiche sia sulla libera circolazione delle merci, ma che può avere conseguenze anche sulla salute pubblica. Pensiamo al furto di beni che hanno bisogno di essere trasportati in regime di temperatura controllata, come gli alimenti surgelati e i farmaci, e che vengono rimessi sul mercato dopo aver subito pericolosi shock termici. Per sorvegliare e contrastare questo fenomeno, in Italia da più di un anno è attivo un osservatorio coordinato dalla polizia, che riunisce al suo interno rappresentanti di diverse forze dell'ordine, associazioni e anche l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Ci sono alcuni crimini che richiedono la creazione di veri e propri gruppi interforza che coinvolgano non solo tutte le forze dell'ordine, ma anche i vari attori della filiera danneggiata. È il caso del cosiddetto cargo crime, ossia furti e rapine durante lo stoccaggio o il trasporto delle merci. Per contrastare questo fenomeno è nato in Italia l'osservatorio sui furti, le rapine in danno degli autotrasportatori. Ne parliamo oggi in compagnia della nostra ospite, la dottoressa Maria Teresa Sgaraglia, direttore del servizio di analisi criminale e dirigente superiore della Polizia di Stato. Buon pomeriggio, dottoressa Sgaraglia. Allora, innanzitutto vogliamo cominciare a capire quali sono gli attori che compongono questo osservatorio. Innanzitutto vorrei dire che l'osservatorio ovviamente è un organismo collegiale che nasce nell'ambito della sicurezza partecipata, cioè della sicurezza che devono partecipare tutti, sia gli enti pubblici che gli enti privati, nel rispetto ovviamente delle rispettive competenze. È stato sottoscritto per prevenire e contrastare sempre più efficacemente i reati contro gli autotrasportatori un protocollo d'intesa nel maggio del 2016, questo è stato sottoscritto dal capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, alla presenza del ministro dell'interno, e gli altri sottoscrittori sono l'AISCAT, il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, e l'ANIA e l'ANAS. Nel protocollo è stato previsto l'istituzione dell'osservatorio sui furti e le rapine in danno degli autotrasportatori. Questo organismo, presieduto dal direttore centrale di polizia criminale e vicecapo della polizia, risiedono tutti i rappresentanti delle forze di polizia, di alcune articolazioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza competenti per materia, e poi i rappresentanti ovviamente delle associazioni che hanno sottoscritto il protocollo stesso. Insomma, un organismo complesso che serve a monitorare un fenomeno complesso come appunto quello dei furti e delle rapine a danno degli autotrasportatori, il cosiddetto cargo crime. Ma quanto è vivo, quanto è forte questo fenomeno in Italia? Guarda, quando è stato sottoscritto nel 2016 avevamo potuto vedere, raffrontando i dati, l'andamento di vettuosità dei furti e delle rapine commesse nel 2015 rispetto al 2014, avevamo rilevato nel 2015 un aumento dei furti e un decremento invece delle rapine. Invece adesso, se raffrontiamo i dati del 2016 con quelli del 2015, abbiamo accertato e verificato che c'è un decremento del numero dei reati commessi per entrambe queste fattispecie criminose. Quindi una notizia positiva sicuramente. Certo, e anche comunque la rilevazione del primo semestre 2017 con quello del 2016 è altrettanto positivo, quindi insomma in decremento. Ecco, ma perché questo fenomeno è così preoccupante, tanto preoccupante appunto da aver richiesto la creazione di un organismo di monitoraggio di questo fenomeno? Perché i furti e le rapine in danno degli autotrasportatori possono causare rilevanti conseguenze di natura economica e sociale, con implicazioni anche all'ordine pubblico, cioè mi spiego meglio, siamo di fronte a dei reati pluriaffensivi che creano danni non soltanto agli autotrasportatori ma anche alla collettività, perché possono comportare l'interruzione ad esempio di un servizio pubblico essenziale, pensiamo quando le autobotti non arrivano ai nostri distributori di benzina, ad esempio per sull'autostrada, non arriva il gasolio presso gli ospedali, e soprattutto possono comportare anche dei pericoli alla salute della collettività. Basti pensare alle conseguenze sulle merci trasportate in regime di temperatura controllata nei casi di interruzione della catena del freddo. Pensiamo ai prodotti alimentari o ai prodotti farmaceutici che vengono poi rimessi nel mercato a questo punto privi dei requisiti previsti dalla normativa. Quali sono state le iniziative portate avanti in questo anno di vita, appunto, di questo osservatorio? L'osservatorio si è riunito spesso. E abbiamo fatto ovviamente un monitoraggio approfondito, perché le competenze ovviamente dell'osservatorio è anche quello di monitorare e analizzare il fenomeno, oltre che anche proporre iniziative di carattere normativo o comunque proporre iniziative, diciamo, di prevenzione di questo reato. Innanzitutto la prima cosa che abbiamo fatto è un link dedicato ai lavori dell'osservatorio sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, nell'area degli osservatori, in maniera tale che si possono appunto vedere gli esiti di queste riunioni. Poi è stato redatto un vademecum che suggerisce agli autotrasportatori alcune regole di condotta che possono prevenire il verificarsi di episodi delittuosi in loro danno. È stato avviato un iter per la definizione di proposte normative finalizzate a inasprire le sanzioni previste per i furti e le rapine. E in più è lo studio la creazione di un'applicazione che potrà essere scaricata su smartphone e tablet che fornirà informazioni sulla geolocalizzazione delle aree di sosta con l'indicazione dei servizi offerti e della presenza di eventuali sistemi di difesa passiva lungo queste aree di sosta. Ecco, veniamo ad una delle iniziative, che è quella del vademecum, che mi sembra particolarmente interessante perché anche forse radiofonicamente possiamo rendere questo servizio a chi ci ascolta, autotrasportatori ma forse anche automobilisti, perché probabilmente alcuni consigli valgono un po' per tutti. Ecco, quali sono i consigli che voi date al mondo del trasporto per ridurre ovviamente il rischio di furti e rapine? Certo, sono ovviamente regole di condotta molto semplici, soprattutto improntate alla prudenza. Alcune sono ad esempio che il veicolo non deve essere mai lasciato incustodito, che la destinazione e il carico, la consistenza del carico, l'itinerario ovviamente non devono essere divulgati, evitare le soste incustodite, organizzare ove possibile viaggi in convoglio, molto utili le telecamere posteriori, in maniera tale da poter vedere all'occorrenza dalla cabina il lato posteriore del mezzo. Poi utilizzare ovviamente idoni sistemi di antifurto di ultima generazione e soprattutto nel caso in cui si rimanesse vittima di uno di questi reati, di presentare prontamente la denuncia alle forze dell'ordine, perché in maniera tale che subito vengono avviate le attività investigative. Dottoressa, siamo in chiusura, quindi abbiamo il tempo per un'ultima battuta. Ci sono delle aree del paese in cui si concentra in qualche modo questo fenomeno? Per quanto riguarda i furti, sono interessati sia le aree del nord che del centro che del sud. Per quanto riguarda le rapine, soprattutto quelle del sud, abbiamo potuto anche visto che ci sono delle organizzazioni ben strutturate, soprattutto composte da persone di origine pugliese o campana. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.